brilla del nuovo april, vezzo Sidoni, dimmi di speranza qual verde vedi spuntar sui nostri fedi amori. Tutto sinora appare agli occhi miei, in volto fra gli orrori dei cieli di timori. Da quali già sepolto delle nostre speranze il verde giace? Oddio, che dici? Dunque, non è di sperare, no? Aura dolce ispirare, buono disponete, che tutto scioglia, che le vene suo cielo voglio. Amami pure costane te. E che temer potresti forse di mia costanza? Chissà, suole tale volta nelle mie piccole posta ancorsi a voi. Furtivi i nostri affetti sono agli occhi dalla la mia costanza.